E grazie, infatti hai fatto benissimo a ricordarmi la campagna di abbonamenti di Radio Città Fujiko, perché vi dobbiamo dire appunto di abbonarvi a Radio Città Fujiko. Da 47 anni facciamo radio, no, non io ma gli altri, io sono solo quasi 10, e niente, se volete sostenere l'unica radio locale rimasta in tutta la città di Bologna, praticamente fatelo andando su radiocittafujiko.it/abbonamenti. Volevi dire qualcosa, Anna? No, volentieri. Molto volentieri. Subito gli abbonamenti e tutto qua. Fantastico, molto bene. Naturalmente Mia ha salutato anche Marco Roma, che voi forse ve lo ricordate, forse no. È questo simpatico ascoltatore che tutti i giorni ci manda un vocale cantato, e dunque anche oggi non possiamo fare a meno di ascoltarlo. Sentiamo cosa ci canta oggi. Buongiorno! Ma che giorno è? Se manchi tu stamattina tra il blu e l'azzurro insieme a me. Ma che buongiorno è? Se manca sempre l'allegria che ci sei tu. Da Marco Roma, buongiorno a te. Fantastico. Lui da solo può salvare la Garisenda. No, ma infatti assolutamente. Cioè, c'è mica bisogno di Morano. Appunto. C'è Marco Roma. Abbiamo Marco Roma. Allora, oggi sì, no, infatti grazie Marco Roma. Anzi, Mia ci diceva, mi diceva anche in un altro vocale che in effetti potresti anche farci un vocale dicendo sono Marco Roma e questa è Coxo Spaziale, così dopo la teniamo e la usiamo quando abbiamo bisogno di un jingle. E allora oggi abbiamo tre di voi sono qui per un appuntamento importante che si intitola Metamorfosi. Chi parla di questo concorso? Ah, direttamente il prof. Allora facciamo una premessa. La Lega Tumori, sì, ha deciso quest'anno di, dopo aver fatto un libro sui 100 anni, sul nostro anniversario dei 100 anni, abbiamo pensato a una cosa nuova che poteva, diciamo, venire dopo il libro che abbiamo fatto, che si chiamava appunto Psiche Arte, e quest'anno abbiamo, insieme a loro, che poi parleranno, voluto fare questo concorso fotografico intitolato Metamorfosi, che poteva naturalmente essere interpretato in tantissimi modi, no? Dalla zoologia a ricordare le metamorfosi di Ovidio, la metamorfosi di Kafka, quindi visto in tanti modi, e soprattutto si poteva anche così pensare a un qualcosa di zoologico, nel senso di cambiamento nell'animale, che da un essere può diventare un altro, ma soprattutto visto dalla parte nostra, tenendo conto che io faccio l'oncologo e nell'ambito sono il presidente appunto della Lega Tumori, avevamo pensato eventualmente a cambiamenti di vario tipo, dai cambiamenti di stile di vita in funzione di un aspetto salutistico, no? Allora io sono un fumatore, cambio, a metamorfosi, non fumo più, alcol, riduco eventualmente l'alcol, quindi do delle indicazioni. Ma perché l'alcol fa male? Dipende, come tutte le cose bisogna sempre gestirlo, come il sole che non fa sempre male ma può farlo, il mangiare, guardarlo, no? Con i binocoli non è proprio indicato, certo, soprattutto se c'è l'eclissi, esatto. Infatti ai tempi miei si usavano le lastre della radiografia per poter guardare il sole, e quindi vedendo tutti questi vari aspetti abbiamo posto questo problema, che in effetti devo dire che i 130 concorrenti che sono entrati in questo concorso, e soprattutto quelli che dopo verranno elencati, che sono stati inseriti nella short list, che quindi verranno premiati il 6 di dicembre, di cui stasera non diremo i vincitori, chiaramente, anche se voi lo sapete. No, non lo sapete. Solo la giuria lo sa. Solo la giuria, okay. E quindi in busta chiusa verrà aperta il 6 di dicembre. Ho capito. E quindi con questo discorso che così ci siamo posti, devo dire che mi sono piaciuti molto come l'hanno interpretato, perché molti hanno dato quello che, partendo da una malattia, non sempre tumori, perché alcuni hanno posto anche delle altre problematiche, hanno cercato di vedere come nell'altro libro 10 miei pazienti hanno testimoniato non la malattia ma la soluzione, ma le cose che hanno aggiunto, chi ha fatto i quadri, chi ha fatto le poesie, chi si è interessata di altre cose. E anche qui, in un certo modo, attraverso la fotografia, tenendo conto dell'imaging che possa avere, l'importanza che può avere in ambito medico, per cui il fatto che oggi attraverso le immagini noi possiamo vedere delle lesioni, non dico microscopiche, ma poco più. Mm-hmm. Per cui quando ho cominciato a lavorare io, adesso dato che abbiamo finito il mese rosa, per cui abbiamo parlato di mammella fino all'altro giorno, quando ho cominciato a lavorare io, la mammografia era praticamente una cosa dannosa più che utile, no? Oggi, e si parlava di centimetri. Mm-hmm. Oggi si fa fatica delle volte a parlare di millimetri. Infatti la difficoltà nella diagnostica è stabilire il passaggio tra la normalità e la non normalità, e che è estremamente complessa per certi aspetti, per cui delle volte può determinare anche un overtreatment delle lesioni, no? Però certamente il passaggio che ci sia stato in questi 30-40 anni è enorme, tant'è vero che in passato il grande chirurgo era quello che faceva il grande taglio, no? Questa era l'ipotesi. Lucio Poi naturalmente Fontana. oggi si parla di lesioni che ci possono portare via per via laparoscopica con i robot, per cui è tutto, il mondo è cambiato in maniera netta. Una volta con l'appendice si stava dentro 12 giorni, oggi per degli interventi grossi in 3 giorni vanno a casa. Un appendicite 12 minuti si sta. Qualche volta anche meno. E poi abbiamo Roberta Ricci che invece ci parlerà di varie istanze che hanno a che fare con la psicologia, giusto? Allora, io invece sono a raccontarvi di questo evento fatto da Associazione Progetto Psicologia. Ed è già il quarto anno, Letture Psiche, un evento dove abbiniamo letture, libri alla psicologia, e prendo il gancio che mi ha tirato il dottore su Ovidio sulla metamorfosi. Mercoledì 29 si parlerà della sindrome di Eco e del libro Narciso e Bocca d'Oro, e parleremo di narcisismo e sindrome di Eco. Che non è Umberto Eco, naturalmente. Che non è Umberto Eco, è una sindrome reattiva. Voi perdonatemi, ma io devo continuamente abbassare il livello di questa trasmissione, perché altrimenti è troppo alto. Ma è spaziale. Esatto. E i nostri ascoltatori si sentono a disagio. Devo anche dirvi che 3 giorni fa è uscito un disco che si intitola Colpa Nostra, che è il disco di esordio di Dumbo, alias Mattia Girasole, che è un ragazzo del 98 che e nasce nell'entroterra ligure, e appunto il suo primo disco è questo, che si intitola Colpa Nostra. Nel 2023 ha pubblicato il singolo Pazzo, a cui segue appunto Colpa Nostra, il disco d'esordio, e ringraziamo Agnese di Pure Press che ci ha mandato questa segnalazione, e ci ascoltiamo Nascondino. Quello che vuoi, venimi a cercare se mi nascondo. Il tempo scade, la clessidra va a fuoco. Il mio veleno non fa sentire il vuoto. Scusami a dopo, e allora che vuoi? Vorresti provare quello che provo? Un mio brutto momento che vedi come un gioco. Chiedi che ho da darti, mi è rimasto dell'odio. E se lo vuoi ci sono, ma solo se vuoi. Guardami negli occhi e dimmi che è tutto sbagliato, che sta bruciando pure il mondo che avevi sognato. Il passato è più bello di quanto ricordassi, il futuro è peggio di come immaginavo. Spero che un Dio mi salvi, che una donna mi calmi, di non impazzire prima dei 30 anni. Spero di essere grande al di là degli anni, e spero di star bene al di là degli altri. Non c'è uomo che non tradisca, non c'è donna che non finga. la bocca della verità si sta mordendo la lingua. Puoi dire quello che vuoi, vienimi a cercare se mi nascondo. Il tempo scade, la clessidra va a fuoco, il mio veleno non fa sentire il vuoto. Scusami a dopo, e allora che vuoi? Vorresti provare quello che provo, un mio brutto momento che vedi come un gioco. Chiedi che ho da darti, mi è rimasto dell'odio, e se lo vuoi ci sono, ma solo se vuoi. Roberta dice mandiamola ad amici, e io rispondo naturalmente a rovinarsi. No, in realtà non è male per niente, complimenti al nostro Dumbo, scritto con la N, Dumbo, per cui forse si pronuncia anche Dumbo, Dumbo. Oh, chi lo sa. E no, invece azzurra immediato, top curator di Bologna, e Anna Rosati, top photographer di Bologna. Eravate venute a presentare il concorso qualche mese fa. Esatto, com'è andata la partecipazione intanto? È andata sorprendentemente bene. Sia da un punto di vista proprio quantitativo, per cui abbiamo ricevuto tantissime proposte, tantissime partecipazioni, e soprattutto da quasi ogni regione, per cui dal nord al super. In realtà noi avevamo chiuso quest'anno la prima call con insomma una partecipazione nazionale. In verità abbiamo ricevuto anche delle richieste internazionali, ma siccome il regolamento prevedeva una partecipazione nazionale, per quest'anno abbiamo dovuto salutare, rimandare oltre confine altri fotografi. Però comunque questa è stata una bella cosa, e quindi questo da un punto di vista quantitativo. Da un punto di vista qualitativo siamo rimasti sorpresi. Perché? Perché comunque, perché la qualità era bassissima, altissima, ma soprattutto estremamente eterogenea, per cui come appunto ci eravamo già detti quando abbiamo lanciato il concorso anche qui da Radio Fujiko, si trattava di un tema molto complesso, no? Eppure nonostante ciò c'è stato un grande impegno da parte dei partecipanti, che si dividono in due grandi macro categorie, professional ed emergenti. Sì. Nella volontà, insomma, di narrare attraverso dei progetti molto corposi un tema così difficile, e dobbiamo dire la verità, sono stati quasi assenti i casi di parallelismi. Insomma, c'è stata anche una grande volontà di raccontare ed entrare all'interno di questo tema, quindi insomma siamo quasi commossi. E sì, insomma la giuria, è stato difficile anche scegliere. Molto, molto, effettivamente sì, anche la giuria. Perché la short list è di 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 12 finalisti. 12 esatto, finalisti che esatto. Verranno tutti esposti, giusto? Sì, durante la premiazione saranno presentati al pubblico, quindi il 6 dicembre, ricordiamo l'appuntamento a Palazzo Segni Masetti, che è la sede Ascom di Bologna, un palazzo storico, proprio vicino alle Due Torri. Tanto la Garisenda per adesso tiene botta, quindi non cade, quindi poi siamo abbastanza lontani dalla traiettoria, quindi dalle ore 10 naturalmente l'appuntamento è aperto a tutti. Ci sarà la premiazione, ma prima la presentazione di tutti i progetti, per cui verranno proiettati interamente i progetti dei 12 finalisti, e poi il prossimo anno invece ci sarà proprio la mostra. Però per adesso non vi diciamo ancora nulla, non spoileriamo la mostra, però possiamo avere una preview di tutti i progetti. Esatto. La giuria, allora abbiamo il presidente Scioba, si pronuncia così? Sì, Scioba, che Scioba. Insomma, è una fotografa famosa ha vinto anche due WordPress, per cui insomma, che è l'Oscar della fotografia. Okay. E quindi insomma lei è stata, insomma, ci ha colpito anche il fatto che una giuria di, insomma, di componenti così importanti abbia in verità accettato da subito. Cioè, noi abbiamo detto vi va di parte? Sì, e poi gli abbiamo spiegato qual era il progetto, per cui insomma naturalmente avendo la LILT come ente, associazione, sì, organizzatrice, infatti, dire, insomma è difficile dire di no a un'istituzione come esatto, la LILT. Esatto, certo. Per cui insomma Scioba è presidente della nostra giuria e poi sono tutti esperti del mondo della fotografia, dell'arte, dell'editoria. Abbiamo Enrico Stefanelli che è anche il presidente del Photolux Festival di Lucca, Massimo Mattioli che Stefano conosce molto bene, Loretta Secchi dell'Università di Bologna e del Museo Anterus, esatto, di Benedetta Bologna. Donato, per cui insomma anche delle personalità abituate naturalmente a lavorare con l'arte, con la fotografia, con la psiche, e che in maniera trasversale, per cui anche il lavoro della giuria è stato estremamente complesso ma molto arricchente per tutti. Sì. Per cui insomma il risultato poi il 6 dicembre stupirà sicuramente anche il pubblico. Poi diciamo che nel libro catalogo che accompagna questo premio ci sono dei contributi anche scientifici, per cui abbiamo 3 contributi molto interessanti che trattano chiaramente il tema della metamorfosi e che sono diciamo un valore aggiunto a quello che sono le fotografie, nel senso che non è solamente l'immagine ma c'è anche una, diciamo, un pensiero che accompagna tutto questo e ci sono anche delle belle, possiamo chiamare delle piccole suggestioni che la giuria ha voluto regalare a tutti coloro che avranno il piacere di acquistare il libro eccetera, e dove appunto hanno espresso la loro diciamo la loro felicità di partecipare, sì, a questo premio, per oltre, cui, insomma, il lavoro, oltre il lavoro che hanno definito anche loro difficile da analizzare perché progetti molto molto pensati, per cui non è solamente l'immagine ma è anche quello che sta dietro l'immagine, per cui c'è un concetto che veniva espresso attraverso la fotografia che comunque è un linguaggio chiaramente. Bisogna essere preparati perché alcuni progetti effettivamente non sono bisogna, per cui diciamo, infatti durante l'evento avremo una gentilmente una lettrice che accompagnerà la visione delle fotografie, sì, sarà un po' la voce fuori campo, la voce narrante Elisabetta Mancini dell'associazione Il Leggio, esatto, e che ci accompagnerà durante l'evento, insomma, sarà poi presentato da Amalia Picella, giornalista di Bologna che modererà la giornata. E diciamo che sarà ci aspettiamo tutti un grande affluenza di pubblico per festeggiare questi vincitori. È un momento di visione, ma visione, anche di riflessione e anche festeggiamento. Insomma, questo modererà la giornata, mi spaventa un po'. Cioè, significa che è un evento che durerà svariati. No, una mattinata. Giornata per esagerare, ma in realtà è una mattinata. Ho una seconda domanda, ma il libro di cui parli, che hai davanti, come mai ce l'avete già davanti? Di solito proprio vengono quando ve l'abbiamo portato per farvelo vedere in anteprima. Però non lo apriamo perché non si può aprire, si vede la copertina, vede la copertina da lì non si capisce il vincitore, è chiuso o la vincitrice naturalmente le pagine sono bianche all'interno. c'è solo un segno. In realtà la mia domanda è come mai l'avete pubblicato così presto, visto che accompagnerà la mostra, immagino, no? Certamente, però in realtà questo non è un catalogo di mostra, ecco, questo è un volume che presenta i progetti, ma soprattutto si innesta in tutto un discorso che va appunto a raccordare l'arte, la psiche e la medicina naturalmente e la LILT, per cui insomma è una sorta di volume che apre questo corso, no? Che la LILT proprio durante i 100 anni ha già in un certo senso inaugurato con il volume del centenario e qui, proprio secondo una visione che non è una continuità in un certo senso, entrando su un altro campo dove perlomeno per me era, infatti quando abbiamo fatto le call con la giuria è stata tutta una sorpresa per me, perché non mi aspettavo un entusiasmo immediato da parte loro che si potessero avvicinare a una realtà come la nostra, che adesso loro fanno parte di un altro mondo, ma io la fotografia come tutti da ragazzotti, la camera oscura l'avevamo tutti, l'ingranditore l'avevamo tutti, però dopo è finita. Tutti no, beh, insomma, non esageriamo. Si usava abbastanza frequentemente, si usava. Per cui questo incontro con questo mondo è stato per me, che sono ancora abbastanza curioso nonostante l'anagrafe, e quindi da poter eventualmente poter sviluppare e entrare in un altro mondo in un altro modo. E devo dire è stata interpretata sia dai concorrenti ma anche dai giurati in maniera come non mi sarei aspettato, ma ero contento che avvenisse. Ho capito, fantastico, molto bene. Sono le 20:30 e dunque facciamo partire le pubblicità delle 20:30. Questo succede così. Siamo il coro di periferia e questo è Coxo Spaziale. Mi ha detto quando passo a Roma ti farò uno squillo, e poi mi scrivi solamente quando sono brillo. Dimmi tu cosa ti aspetti a quest'ora dei soliti discorsi. Ad esempio casa mia è piena dei tuoi dischi. Si vede bene la luna dal parco della SNIA, riflette tra le sirene sopra la polizia che lasciano la scia. E intanto tutti di fretta, di corsa, sempre di fretta, di corsa, tutti di fretta, di corsa, cercando di capire che cosa ci aspetta tra l'oroscopo del giorno e il fondo di una tazza. Ah, alla faccia delle connessioni più veloci, ti scriverò una lettera al posto dei cuori, ti scriverò una lettera al posto dei cuori. Ma anche sti cazzi se non siamo uguali, tu ami il centro, io centri sociali, anche se mi tardi, ti scriverò per dirti che mi manchi, e come sempre, sempre fuori tempo, ma guarda te che spreco di talento, oh, oh, potevamo sicuramente fare di meglio, Addosso abbiamo corso dei rischi, alcuni sono rimasti sotto forma di graffi, tipo le porte coi gatti. Abbiamo visto amici che si sono persi, perché lo sai bene che questa vita è stronza, appena perdi la concentrazione ti spezza. Luca l'ha detto, fisico bestiale costanza. E intanto tutti di fretta, di corsa, sempre di fretta, di corsa, tutti di fretta, di corsa, cercando di capire che cosa ci aspetta tra le notizie del traffico e i ritardi sulla mappa. Ah, alla faccia dei percorsi più veloci, io ti raggiungo a piedi mica con i voli, io ti raggiungo a piedi mica con i voli. Ma anche sti cazzi se non siamo uguali, tu ami il centro, io centri sociali, anche se mi direi che è troppo tardi, ti scriverò per dirti che mi manchi, e come sempre, sempre fuori. Questo invece si chiama Montegro e ero a Roma ieri e ho trovato un QR code che diceva ascoltate le mie canzoni tristi. E dunque questo felicemente hai inquadrato il QR code. Esatto, felicemente, per cui funziona, cioè funziona. Voglio dire, almeno per una persona tipo me è funzionata. Fra l'altro non è male per niente. No. Potevamo sicuramente fare di meglio. Potevamo fare di meglio, anche noi di Coxo Spaziale, come al solito, potevamo fare di meglio, ma del resto si fa quel che si può. E infatti adesso quello che facciamo è questa cosa qua. L'angolo della menzione. Che ahimè di solito faccio insieme a Mia, ma stasera faccio da solo. Allora, ovvero domani martedì 28 28 novembre alle ore 17 abbiamo l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti che ospiterà una discussione attorno al sesto numero del Journal Internazionale Dune, scrittura su moda, progetto e cultura visuale. Questo numero, incentrato su Francesca Alinovi, intende posizionare in una corretta prospettiva storica e teorica il lavoro di una figura rivoluzionaria nel panorama della critica italiana ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione In Between Art Films. La presentazione, a cura della professoressa Fabiola Naldi, che salutiamo, vedrà la presenza di Maria Luisa Frigisa, direttrice di Dune, Mariuccia Casadio, critica d'arte, e Veronica Santi, critica d'arte e filmmaker. Questa è l'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via delle Belle Arti 54 a Bologna. Poi abbiamo mercoledì, cos'è? È partito subito quello lì, ok, un attimo che devo mettere, eccolo lì. Dicevo, mercoledì 29 novembre alle ore 16 abbiamo Ricucire le parole col filo bianco, poesia contemporanea ucraina in Italia. Ia Kiva in tour, un'occasione importante nel cuore della città per conoscere Ia Kiva, una delle voci più rappresentative e stimate delle nuove generazioni poetiche ucraine, presente nell'antologia Poeti d'Ucraina. Conduce Rossella Renzi, poeta e redattrice di Argo, rivista d'esplorazione, curatrice del blog Poesia del nostro tempo. L'ingresso è gratuito e questo è alle 16 di mercoledì al Museo Archeologico in via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. Mentre invece mercoledì alle 18.30 abbiamo il probabile esito della convivenza con un narcisista, ovvero la sindrome di Eco. Incontro con Roberta Ricci, psicologa e psicoterapeuta a cura dell'associazione Progetto Psicologia. Questo è il Dandy Caffè Letterario e Roberta, che è qui con noi, ci racconta esattamente tutto su questo incontro. Cosa ci racconti? Allora, diciamo che in questo mondo dove il narcisismo e il narcisista è conosciuto da tutti, è sulla bocca di tutti, tutti ne parlano, tutti lo descrivono, tutti ne incontrano, diamo un po' uno sguardo a quello che è l'altro lato della medaglia, in qualche modo, no? E diamo voce a quello che accade a chi vive con un narcisista. Non è un inquadramento diagnostico e quindi non è assolutamente questo quello che noi andremo a fare mercoledì sera, ma sarà un po' dare voce a tutte quelle che sono, non mi piace definirle vittime, però in qualche modo le vittime del narcisista. E spesso vengono ignorati, non vengono considerate, si sente dire sei sempre la solita esagerata. Invece è giusto dare voce anche a questa parte del mondo, no? È stato per tanto tempo non considerato, ripeto, si parla sempre di narcisismo, si parla pochissimo della sindrome di Eco. E quindi è un modo, una modalità per dare uno spaccato, un po' di visione anche a questa parte della storia. In effetti io per esempio non ne avevo mai sentito dire della sindrome di Eco. Sì, è una sindrome abbastanza... Io che sono un narcisista non ho mai sentito dire della sindrome di Eco. Però tutti conoscono la storia di Narciso. Certo. Pochi conoscono la storia di Eco, che è una ninfa dei boschi, e pochi la conoscono. E quindi invece è importante dare un aspetto e una visione anche a questo. Non voglio spoilerare troppo. Certo, infatti, anche perché dopo poi... Perché mercoledì vi aspetto tutti al Dandy Caffè Letterario, anche perché l'ingresso all'evento è gratuito, ma al Dandy Caffè ci sarà poi un buonissimo aperitivo, quindi ci sarà da bere, da mangiare, questo a pagamento. Naturalmente. Però insomma, è un momento carino per venire a parlare anche di un bellissimo libro che è Narciso e Bocca d'Oro di Herman Hesse, che è il libro da cui prendiamo spunto e da cui cominciamo per raccontare questa situazione. E quindi insomma, se volete venire a chiacchierare un po' con me, si consiglia la prenotazione, sì, scrivendo a caffeletterariodandy@gmail.com oppure associazione progetti psicologia @gmail.com. Esatto. Comunque trovate tutto, da domani trovate tutto su coxospaziale.blogspot.com, dove non solo potete riascoltarci ma potete anche appunto andare a vedere tutto quanto. E dunque mercoledì 18:30 al Dandy Caffè in via della Grada 4E. Dopodiché, se devi aggiungere qualcosa, te lo faccio fare dopo, perché io continuo, perché mercoledì, finito quello, c'è un sacco di roba. C'è ancora alle 21:30 da Pescecane in via Santa Margherita 9, abbiamo Piani Ortogonali, una mostra personale di Gaia Nieri. Non so nient'altro di questa mostra, ma so che è una mostra da andare a vedere, per cui mercoledì sera dopo la sindrome di Eco andiamo a vedere qualche nuovo narciso. Esatto. Dopodiché venerdì 1 dicembre alle ore 18 inaugura da Piacenza Without Ever Being Exposed to the Sky, senza mai esporti al cielo, mostra personale di Sara Larsen Stiansen, che è stata qui la settimana scorsa, buonanotte, esito della residenza dell'artista norvegese a Bologna come parte della seconda edizione del programma di scambio internazionale SWAP a cura di Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi di Piacenza, realizzato in collaborazione con Horland Kunstenter e Visp con il contributo del comune di Bergen e del comune di Bologna. La mostra naturalmente inaugura il 1 dicembre alle 18 ad Adiacenza in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna, da non mancare, perché sono stato a vedere la preview lo studio visit che aveva fatto l'open studio che aveva fatto la nostra Sara, e devo dire che la mostra sicuramente si prospetta molto interessante. Dopodiché domenica 3 dicembre alle ore di sabato potete stare a letto stavolta col freddo che fa, per cui tutto a posto, tutti a casa, ma il 3 dicembre alle 18:30 presso la Pinacoteca Civica Il Guercino di Cento invece inaugura Ritual, l'opera pittorica permanente di Giacomo Modolo, esito della sua residenza nel comune ferrarese come parte di Prospettive, progetto di residenza d'artista in Emilia Romagna, sempre a cura di Adiacenza, che loro non si fermano mai, realizzato con il supporto della regione nei comuni di Calderara di Reno, Cento, Spilamberto e Vernasca. Questo è alla Pinacoteca Civica Il Guercino in via Matteotti 16 a Cento, in provincia di Ferrara, e naturalmente troverete tutto su coxospaziale.blogspot.com. E dunque Roberta, raccontaci qualcos'altro. Questa è una serie, quello che tu stai facendo è una serie di eventi che in realtà coinvolgono un po' di psicologi. È una serie di eventi che gestiti da diversi psicologi. Mm-hmm. Diciamo che abbiamo altri due incontri dopo questo. Uno è lunedì 4 dicembre, mm-hmm. Avrò cura di me. Ok. Che prende spunto dal libro Avrò cura di te delle Gramellini e Gamberale. E le dottoresse sono la dottoressa Michela Monti e la Chiara Giacometti, ma per questo è già sold out, per cui non ci pensiamo neanche. Non ci pensiamo neanche. Okay. Se volete avere cura di voi dovete trovare altre soluzioni un'altra volta. Invece martedì 5 dicembre, percorso di guarigione ascoltando le parole del corpo, spunti da Il corpo sa tutto di Yoshimoto, e in questo caso invece sarà gestito dalla dottoressa Luana Giannini. Questo è un progetto in realtà che è già qualche anno che è in corso, ed è un progetto appunto gestito dall'associazione Progetto Psicologia che si chiama proprio Letture Psiche. Okay. Ed è un mese circa, 4-5 incontri di solito, dove tutti gli anni alcuni psicologi portano dei libri di narrativa o dei libri insomma abbastanza classici e vengono utilizzati per prendere spunti per parlare di argomenti di psicologia. E nasce questa cosa, è nata come modo per portare alla popolazione alcuni argomenti che possono essere di interesse pubblico ma di cui magari si parla poco, e per avvicinare un po' la psicologia alla gente, perché ancora tuttora le persone ha paura della psicologa, della psicologia. Sì, io in effetti ho un po' paura di te, devo ammettere. Per noi che siamo dall'altra parte invece possiamo dire che è molto gentile, sorridente, avvolgente. presente, accogliente, quindi non citofonare Roberto, dottoressa Roberto, non morde, almeno non al primo incontro, poi chissà verso la fine. Chissà chi lo sa, però è, no, assolutamente è super affascinante e super importante in realtà che in questo paese ci si avvicini un po' alla psicologia, penso che ne abbiamo un po' bisogno tutti. Questa cosa che lo psicologo cura i matti o io mi arrangio da solo, ecco, non è proprio così, insomma. No? Assolutamente. Assolutamente no. Questo è il pezzo di Roxin che non abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Però non abbiamo tanto tempo per ascoltarlo tutto, però un pezzettino lo ascoltiamo. Facilmente cambia ora la tua ultima muta, ma fai come se non t'avessi detto niente. Devi stare queste sono le parole di Ke Yao Li, che salutiamo, che mi ha scritto in cinese durante la trasmissione, per cui mi sembrava giusto sentirne. E, chissà cosa voleva dirci, però io lo so, perché ho usato il traduttore. Vuol dire che capisce quasi tutte le parole, però fa un po' fatica a mettere insieme le frasi, per cui io le ho consigliato di ascoltare Corso Spaziale per imparare meglio l'italiano, forse non è proprio una grande soluzione, però la salutiamo e la ringraziamo per ascoltarci, come tutti i nostri ascoltatori. Vedo che i nostri amici di Panta 80 stasera sono in tempo, per cui sì, sono qui e dunque vi chiedo, cos'altro volevate aggiungere stasera di tutto quello che ci avete raccontato? Naturalmente mercoledì 6 dicembre alle 10 di mattina a Palazzo Segni Masetti, alla sede Ascomi, in strada Maggiore 23, bisogna andare a vedere la presentazione del premio Lilt per la fotografia contemporanea. Basta. Perfetto. Non parlo. Portate la macchina fotografica a questo punto. Venite, vi aspettiamo. Assolutamente. È bellissimo come però le persone abbiano voglia di esprimersi. Perché questo è veramente uno strumento in cui le persone si sono raccontate, come si sono espressi, capisci bene questa voglia di. Anche per il tuo tipo di. Insomma, di analisi, anche questo può essere importante. Sì. Anche la fotografia può esprimere delle situazioni di dolore o di disagio. È molto bello anche accostare la fotografia all'idea della metamorfosi, del cambiamento. Soprattutto perché una realtà come la Lilt la vive quotidianamente. Sì. E per cui il fatto che un'associazione come Lilt abbia dato spazio fotografico, tra virgolette, per una traduzione molto spesso difficile, oppure proprio come dicevi prima, siccome c'è ancora il tabù della psicologia o comunque del confronto con un professionista, probabilmente la fotografia si pone un po' nel mezzo, quindi è una prima apertura, e quindi in qualche caso ci siamo resi conto, e il pubblico si renderà conto, che alcune fotografie, alcuni progetti sono davvero un percorso introspettivo diciamo, e catartico. Sì. Per mi hai, cioè, era proprio quello che volevo aggiungere, in realtà è questo il punto, cioè alcuni progetti ci hanno colpito in maniera particolare proprio anche per la forza della loro, cioè anche il coraggio se vogliamo, perché alcuni si sono messi veramente in gioco in prima persona raccontando cose anche molto personali, molto, molto private, e le modalità di uscire dal prossimo e far presente gli altri è già un modo per guarire, per guarire, perché esatto, quando tu vivi il tutto all'interno senza proiettarlo all'esterno tu non riesci a liberarti. Questo è un modo, diciamo, in cui non ti si vede personalmente, però vedi il risultato. Per cui è un modo anche, in parte anche per nascondersi dietro queste cose. E poi invece è anche un modo per specchiarsi, per potersi vedere attraverso un filtro, anche quello della fotografia, che ti permette di poter parlare di te, però quasi senza in maniera mediata. Mediandolo, sì, esatto. Per bene, cui vi aspettiamo, cui, insomma, questi appuntamenti, tutti questi bellissimi appuntamenti che hanno come filo conduttore la psiche. Molto bello, no? Anche parlare di sé. Il tuo progetto è molto interessante, questo. Grazie. Leggere insieme e analizzare un libro anche di quello spessore così interessante. Super. Io vi ringrazio tantissimo, tutti grazie i miei fantastici ospiti, Roberta Ricci e Francesco Rivelli, Anna Rosati, Azzurra Immediato, e poi vi saluto, stavolta invece vi saluto così, andandomene a Singapore. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. A lunedì prossimo. Vado a Singapore, benedette care signore.